Venerdì sera, domani sera, al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno andrà in scena uno spettacolo che mette insieme musica e parole. Il protagonista sarà Rami Essam, simbolo della rivoluzione egiziana del 2011. E ai nostri microfoni abbiamo proprio lui. Grazie mille per essere qui, Rami. Sono molto contento che tu abbia accettato il nostro invito. Of course, and thank you for having me. Grazie a voi per avermi chiamato. Vorrei chiederti qualcosa a proposito di quello che farai venerdì a Casalecchio, ma innanzitutto vorrei sapere come stai, che immagino non sia una domanda così banale. Oh, thank you so much. I'm okay, I'm fine. I always love to be in Italy, that has to be mentioned. And these days Oh, grazie, sto bene, mi piace sempre venire in Italia, devo dire. Il concerto che faccio non è uno spettacolo facile, è difficile per il contenuto e per quello di cui parlo, ma ne sono orgoglioso. Il tour è iniziato molto bene qualche giorno fa e abbiamo altri 11 concerti da fare, per cui è impegnativo, ma sono contento e orgoglioso, davvero sono contento di venire in Italia. Happy to be in Italy. Dimmi qualcosa di più sullo spettacolo. È un mix di musica e parole, giusto? Sì, esatto, c'è un po' di parlato e molta musica. E sei accompagnato da una band o suoni da solo? Suono con la mia chitarra, siamo solo io e lei. Ok. Credo sia importante per te che la tua musica venga riconosciuta a livello internazionale. Nel 2020, infatti, hai vinto la prima edizione del premio Gruppo Your Room del Club Tenco. Come ti senti ad essere riconosciuto come artista a cui importa della situazione attuale della sua nazione? It was a great honor to get the first Group Your Room like award and to be connected with Club Tenco. È stato un grande onore ricevere il primo premio Group Your Room e collaborare col Club Tenco. Quando il mio lavoro viene riconosciuto non è importante solo per me, ma anche per i poeti, per il mio gruppo di lavoro e più in generale per la rivoluzione e per le battaglie che ci stanno svolgendo in Egitto. Quando mi assegnano riconoscimenti di questo tipo, mi accorgo che ci sono altre persone nel mondo a cui importa delle stesse battaglie e della stessa causa, e questa è la cosa più bella. E invece come ti senti sapendo di non poter cantare nel tuo paese, di dover andare via e portare la tua musica altrove? Not being able to sing at home is of course one of the hardest things that I experience every day. Non poter cantare a casa mia è una delle cose più difficili che io abbia mai affrontato, anche perché andare via non è stata una mia scelta. Sono in esilio, mi hanno costretto ad andare via dall'Egitto ed è dura, vivo ogni giorno sperando che la rivoluzione vinca e qualcosa cambi, in modo che io riesca a tornare a casa. Invece avere la possibilità di cantare all'estero, di portare la mia musica in Italia e nel resto del mondo è un privilegio e una fortuna. Vedere che condividiamo la stessa battaglia, una causa comune, le stesse difficoltà e sentire la connessione con la gente di tutto il mondo, non solo in Egitto, mi dà molta forza e per questo continuerò sempre a fare ciò che sto facendo. Grazie mille Rami, ti auguro davvero il meglio per il concerto che farai a Casalecchio e spero che riuscirai a realizzare quello che vuoi attraverso la tua musica. Thank you so much. Grazie a voi, sono davvero contento di venire a Bologna. Sarà la mia prima volta e non vedo l'ora di vedere il pubblico.